Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Ritroviamo anche oggi con noi l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Un saluto a Gianluca Codognato. Ciao Francesco, un saluto agli ascoltatori. Allora Gianluca, siamo in settembre, magari qualcuno sta ancora programmando qualche vacanza un po' prolungata come certe volte capita, parliamo di vacanze invece rovinate, ma dobbiamo tornare indietro addirittura ad un anno fa. Sì, premetto, un anno fa, non perché il fatto risalga solo un anno fa, ma perché prosegue la problematica ai giorni nostri, quindi insomma è un problema che adesso poi è venuto fuori in tutta la sua gravità. Noi ne abbiamo raccontate tante, ne raccontiamo tante disavventure di famiglie che vanno in vacanza, abbiamo raccontato disavventure soprattutto di vacanze rovinate, ragni nelle tende, cabine di navi da crociera troppo calde, eccetera eccetera. Qua ci troviamo di fronte a qualcosa di più grosso, andiamo a raccontare, qua sono tre famiglie che si sono rivolte a noi. Famiglia che lo scorso ottobre 2015, quindi appunto un anno fa, avevano deciso di rivolgersi a un'agenzia di viaggi Mestrina per prenotare una bella vacanza in Egitto, una classica vacanza in Egitto, dal 7 al 14 novembre. Hanno dato 1.500 euro a famiglia per questa vacanza, quindi per il volo e per poi il pernottamento, per i pernottamenti e tutto nel villaggio, per una settimana di villaggio. Il giorno prima di partire, sfortuna vuole che purtroppo un aereo dell'Egypt Air, ci ricordiamo tutti, in circostanze misteriose è precipitato, per cui la Farnesina, diciamo, ha sconsigliato i voli verso l'Egitto. Anche quindi questa famiglia è stata sconsigliata a partire, anzi a un certo punto l'agenzia ha detto no, guardi, assolutamente la Farnesina dice che non bisogna partire, casomai rinviamo il volo a qualche mese dopo. Passa il tempo, la famiglia si rivolge all'agenzia, l'agenzia fa capire che insomma quella partenza è impossibile, non si può andare in Egitto, anche dopo insomma che la situazione si era abbastanza risolta, abbastanza sistemata. Sì. E quindi insomma l'agenzia dice va bene, adesso col tempo vi ridaremo indietro i soldi. È passato il tempo, infatti abbiamo detto che è passato un anno, queste persone si sono rivolte a noi un mesetto fa, quindi capisci, le tempistiche si sono molto dilatate. Questa agenzia non ha restituito i soldi e qua c'è la sorpresa, perché i nostri soci, prima di rivolgersi a noi, sono rivolti al tour operator che in teoria aveva organizzato la loro vacanza, e sorpresa, questo tour operator dice di non aver mai ricevuto un soldo dall'agenzia, tant'è che già a suo tempo, ma già prima che ci fosse appunto la caduta dell'aereo, l'agenzia sostanzialmente aveva bloccato quei posti e li aveva dati ad altre persone. Quindi siamo in una situazione in cui tre famiglie hanno tirato fuori 1.500 euro, le hanno dato un'agenzia mestrina, la quale avrebbe dovuto girarle a un tour operator, ma questo non l'ha mai fatto. L'agenzia ha temporeggiato per mesi, dicendo che non si poteva partire a causa del pericolo incombente, del fatto che fosse caduto un aereo appunto il 6 novembre. In realtà ci si rende conto che qua chiaramente ci troviamo di fronte a qualcosa di più grosso. Noi non parliamo mai di truffe, evitiamo di dare giudizi prima di avere poi anche la risposta della controparte. Siamo purtroppo oltre i tempi possibili per fare una denuncia querela, perché in questo caso, Francesco, sarebbe stata proprio una denuncia querela. E allora niente, noi siamo, tramite il nostro ufficio legale ovviamente, stiamo cercando un accordo bonario, che significa semplicemente che ci siamo rivolti all'agenzia, certo non con toni leggeri, intimando la restituzione dei 4.500 euro, che sono una bella cifra. Non andremo neanche in questo momento a chiedere grandi risarcimenti, rimborsi eccetera, noi vogliamo che questi soldi vengano restituiti, perché ci troviamo di fronte a qualcosa che insomma lascia un po' perplessi, lascia molto perplessi. Tra l'altro le famiglie che si sono rivolte a noi, lo diciamo chiaramente, sono molto agguerrite, chiaramente non ci stanno a perdere questi soldi, diciamo che sono chiaramente andati anche personalmente loro nell'agenzia, ma dall'agenzia una delle socie ha semplicemente temporeggiato ancora una volta dicendo sì, ora aspetto il rientro degli altri soci, poi ve li ridiamo. Fatalità, insomma, questi soldi non si vedono, noi siamo pronti a dar battaglia, loro personalmente, cioè le famiglie ci hanno chiesto di dare battaglia, noi ci proviamo prima a mediare, poi chiaramente siamo pronti ad andare in tribunale. Ecco, quindi da questo mi sembra di capire si può imparare qualche cosa. Quando succede una cosa del genere dobbiamo insistere subito nel avere indietro i nostri soldi per non far passare i termini di legge e quindi poi non riuscire più a fare una denuncia come si deve. E questo assolutamente è un appunto giustissimo, infatti in questa situazione il nostro ufficio legale si è trovato, non in difficoltà, però si è trovato spiazzato dal non poter fare una denuncia querela, che chiaramente in questo momento sarebbe stata la mossa migliore. Noi procediamo comunque con il nostro classico modo di agire, quindi tentando di conciliare, di trovare una soluzione con la controparte. Però, vista un po' la situazione delicata, siamo pronti appunto ad andare in tribunale. Francesco, quello che vogliamo dire è che anche quando si organizza una vacanza bisogna scegliere, purtroppo non è facile dire scegliere perché uno com'è che sceglie, però bisogna cercare di guardarsi attorno, magari sentendo anche suggerimenti di chi ha già si è già rivolto a una determinata agenzia e appunto andare da chi ci si fida. Dobbiamo dire una cosa, una piccola curiosità: queste persone si erano sempre rivolte fino a un certo punto a un'agenzia, quest'anno hanno cambiato e purtroppo emerge sempre il vecchio detto che chi lascia la strada vecchia per la nuova mal si trova, ma insomma adesso non vogliamo essere esagerati o insomma utilizzare i detti della nonna, però insomma in certe occasioni può valere assolutamente. Dopo questa nostra segnalazione, chissà se ci sono altre famiglie che hanno avuto lo stesso trattamento e che magari non lo sappiamo, insomma, potrebbero farsi vive anche queste con l'Adico. Grazie a Gianluca Codognato, con l'Adico l'appuntamento è per la settimana prossima. Grazie Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.